che vorre me jutlen, no jutlen et emerran. Ient un so e locca dei umig dei aldri fan. Aldri fan. E che vorre me jutlen, no jutlen et emerglog. Ient un so e locca dei umig dei aldri so. Die Vedus guien